boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Ecco, Chiedo Asilo, che è un programma per i bambini, con i bambini, sui bambini, tra i bambini, perché siamo all'asilo, sui bambini. Sui bambini, sì. Sui bambini, così come sui bambini erano concentrate le attenzioni di alcuni neonazisti tedeschi nel Mecklenburgo, così, pensa un po'. Salto, sì. Così. Un salto così. La regione del Mecklenburgo è quella che si affaccia sul Mar Baltico, ex Germania Est, vicino a Rostock, e lì sono zone dove un po'. Insomma, sapete tutti che la ex Germania Est è il terreno più fertile per i nostalgici del Reich. Tutti nostalgici. Ma la cosa sconvolgente è stata scoprire che alcuni asili pubblici che erano stati messi in vendita sono poi stati acquistati da membri del Partito Nazionaldemocratico, che altro non è che il partito nazista mascherato da partito normale. Questa notizia io in Italia non l'ho sentita da nessuna parte, però in Germania si sono preoccupati molto e hanno dovuto anche fare una legge apposta e intervenire. Ma ci mancherebbe. È sembrato subito evidente che questi pazzi avevano il progetto di far crescere nella fede nazista degli sfortunati bambini, quelli che si sarebbero iscritti appunto a questi nuovi asili privati. E per fortuna le autorità hanno scoperto tutto, non è successo niente di grave, insomma. Sì, però la cosa è preoccupante perché potrebbe venire in mente anche ad altri di fare la stessa cosa. Che ne so, metti che venga in mente a quelli del Ku Klux Klan in America. Bisogna stare attenti. Quando si dà l'autorizzazione per aprire asili privati, bisogna stare attenti. L'educazione dei bambini così piccoli è una responsabilità enorme. Non può venire di certo affidata ai primi che arrivano, a persone con intenti manipolatori. Senti cosa dice, non so, il sindaco di un paese italiano qualunque. Oggi come oggi i comuni sempre di più hanno meno risorse e quindi nascono come funghi tipi di asilo come questo, dove vedono il bambino come una merce, come una fonte di guadagno. Hai sentito? A me sti argomenti mi agitano, Drago. C'è. Vado a fumarmi una sigaretta. Ma come a fumare una sigaretta? Ma sono agitato. Ma c'è il programma sono da fare. Sono agitato, Drago. Ma capa. Vabbè, allora rimango da solo io qui col nostro ospite. Avevamo un ospite. Buongiorno. Abbiamo qui infatti il professor von Würstel, che è proprio uno degli ideatori. Per favore, von Würstel. Possibile che voi di Italia non sapete dire Würstel? Sembra Würstel. Würstel, Würstel. Würstel. Allora, professor von Würstel, buongiorno. Guten Tag, guten Tag. Allora, ma cosa vi è saltato in mente di fare? Voi volevate far crescere dei bambini di oggi negli orribili ideali del nazismo? Ma nein, la nostra era solo un'idea legittima, un'idea di educazione un po' rigida di vecchia maniera. Oggi i bambini, i genitori, tutti quanti sono troppo lassisti, troppo presi a poco. Tutto come viene, viene ndokoyokoyo. Dite voi d'Italia, ndokoyokoyo. No, vabbè, si dice a Roma. Mi interessa me d'Italia. Vabbè, invece voi avevate in mente delle classi, immagino, disciplinate, inquadrate, ubbidienti. Esattamente, capelli corti con sfumatura alta, tutti con polvere di antipidocchi, tutti timorosi di autorità, pronti a morire per grandi ideali. Mi sembra che il nostro piano era alla fine un piano che voleva bene ai bambini e al futuro dei bambini. Capisco, perché adesso io sono finito di arresto domiciliare. Infatti, non qui capisco. È piantonato qua fuori, io ci veramente sono le autorità tedesche. Capisco. Però vabbè, noi abbiamo letto anche che c'erano proprio dei simboli evidenti del, non so, c'era la svastica un po' dappertutto in questi asili, no? Lei conferma? Natürlich, per forza. Cosa essere i nostri ideali senza simbolo di svastica? Non lo so, se non lo sa lei, tutto lì, tutta la svastica. Avevamo messo il simbolo glorioso di croce unchinata su tavoli, su sedie, su piastrelle di pavimento. Sì, poi si è vista una foto sul tetto anche. Sul tetto, bello grande, così vedi anche Google Earth, vedi che c'è grande svastica. E poi su carta intestata di asilo, su specchi in bagno, su porte di bagno. Sulla carta igienica. Cosa fai questo? Tu credi di essere spiritoso? Vabbè, di svastica su carta igienica? Cosa mi va a venire? Professor von Würstel, si calmi un attimo. Un po' di senso dell'umorismo anche su queste cose. Ma noi abbiamo grandissimo senso di umorismo, sempre avuto. Ma tu credi che giorno il nostro asilo, tutto giorno, tutto ridere, sempre da mattina? Infatti, come erano organizzate le lezioni? Insomma, cosa succedeva molto, tutto il giorno? Molto, molto naturale. Sveglia all'alba, alza bandiera. esercitazione militare di mattina, allora, lettura ad alta voce di Mein Kampf, di pomeriggio seguita da un corso pratico per seviziare ebrei. Insomma, tutte cose normali, giuste per bambini piccoli. Abbiamo anche di cose di molto di ridere. Abbiamo canzoncine sul nostro Führer. Abbiamo anche un bellissimo sitcom che fa molto ridere sul nostro di Führer. Una sitcom su Hitler? Oh ja, senti che ridere. Adolf Hitler. Wenn Polen versuchen sollte, auf dem Weg zollpolitischer Maßnahmen Danzig wirtschaftlich zu vernichten, dass dann Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte. Professor von Buster, se ne vada con i suoi piantoni, va? Senti cosa ti auguro. Che ti cadesse un fulmine da un cielo di tempesta. E se oggi il cielo è limpido, almeno qualche rondine te la sganciasse in testa. Chiedo asilo! Oh, oggi è giovedì giorno di talk show politici, come certo. Quello di Rai 2 che sbanca gli ascolti, sbanca le polemiche, sbanca... Stiamo parlando di anno zero del compagno bambino Santoro. Perché ho detto compagno? Non lo so. Sarà un lapsus freudiano. Vabbè, uno dei bambini più litigiosi dell'asilo comunque. Ma non è vero, non è il bambino Santoro a essere litigioso, sono i suoi compari che lo sono, quelli che lui invita. Perché lui è come se facesse una festa di compleanno alla settimana e ogni volta scoppia una rissa per qualche motivo. Alle feste bisogna solo invitare i bambini per bene, questo si sa, bisogna scegliere. Vabbè, comunque l'edizione 2010 di anno zero è nata tra mille problemi. Sono tutti senza contratto, sono tutti accusati di essere di parte, però ribattono di avere un pubblico enorme, quindi adesso il bambino presidente Masi dice la sua, dice bisogna smettere di fare gli applausi a scena aperta, ad esempio. Sì, ognuno vabbè, dice la comunque sua. Qui a Chiedo Asilo abbiamo i nostri informatori, siamo riusciti ad ottenere in esclusiva un'anticipazione della puntata che andrà in onda questa sera. Drago, non chiedeteci come abbiamo fatto perché non lo sappiamo nemmeno noi, ma sentite qui che roba. Allora, signore, ma fai così, ma in media stress, quindi fai così, aprono collegamenti e così, e sono già così. Ma chi sono? La botte, parolacce, Santoro, bambino Santoro, c'è bambino Travaglio, ma i soliti, bambino porro, poverino, sì. No, ma guarda che anno zero quest'anno si chiamerà anni zero, dato il livello di aggressività che esprime. Anni zero è un po' il simbolo dell'infantilismo italiano, perché anni zero si va apposta per perdere le staffe. Certo. D'altra parte il promo fatto dalla redazione non era piaciuto molto al bambino Masi, perché era un po' violento. Chissà perché, sentiamolo questo promo. Voglio che tu mi colpisca più forte che puoi. Perché? Quanto sai di te stesso, se non ti sei mai battuto? Dai, colpiscimi, se no perdo il coraggio. Vedi. Ecco! Mi hai colpito all'orecchio! Ecco, botte. All'orecchio. Fa male. All'orecchio fa male, Fa male. Ma perché il bambino presidente Masi ha detto di no? So, mi sembrava veritiero, un promo. Ma si vede che per motivi estetici non piaceva. Vabbè. Drago, che ne sai? Comunque non perdetevi le nuove avventure del bambino Santoro, del bambino Travaglio e del bambino Vauro nel Fight Club della TV italiana. Botte, insulti, spintoni, dita negli occhi e chi più ne ha più ne metta. E se qualcuno di voi ha nostalgia della box in TV, può sempre guardare Anni Zero tutti i giovedì su Rai 2. Sei una democrazia normale. Io vorrei finire la non frase. Dire stronzate, ma non dici frasi, dici stronzate. Siamo in democrazia, idiota, ignorante. Allora, ha parlato l'esperto. Va bene, certo che è così. Va bene, certo che non è così. Certo che è così. No. Assolutamente no. Sei un bugiardo. Ma non c'è la neurodeliri. Approfondite questa testa di... Torniamo domani, aia! E prendetevi a botte su chiedoasilo@radio24.it.